Luoghi d'arte. Un saluto da Marco Carminati, sono in un luogo molto affascinante, mi trovo non lontano da Modena, alle prime propaggini dell'Appennino, nella cittadina di Vignola, che è nota in tutta Italia soprattutto per la produzione delle ciliegie, infatti i dintorni sono disseminati di queste meravigliose piantagioni, ma mi trovo qui perché Vignola in realtà ospita uno dei più bei castelli che si siano conservati in Italia, la celebre Rocca di Vignola. Questa rocca purtroppo è stata danneggiata come tanti monumenti nel terremoto dell'Emilia del 2012, però adesso è stata restaurata e l'occasione del restauro ha portato a una innovazione straordinaria di cui vi voglio parlare. Questa rocca è una rocca del 1400, venne costruita da un feudatario degli Estensi che si chiamava Uguccione Contrari. Questo signore fece costruire questo suo castello palazzo, lo fece decorare da un pittore anonimo dell'inizio del 400 sia all'interno che all'esterno. All'interno, naturalmente, nella cappella soprattutto e in qualche sala si conservano ancora le decorazioni, ma all'esterno purtroppo il tempo ha fatto sì che crollassero tutti. C'erano ancora tracce all'inizio del 900 delle decorazioni esterne e nel 1931 si poté fare una specie di album un po' inventato con degli acquarelli per pensare a immaginare com'era questa incredibile decorazione esterna che era stata descritta dai viaggiatori. Oggi cos'è stato fatto? In occasione del restauro, con le tecnologie, per esempio con i droni, è stato possibile fotografare soprattutto la Torre del Pennello, che è una delle tre torri, e vedendo qua e là i piccoli riacerti di pittura e poi prendendo gli acquarelli che erano stati fatti all'inizio del secolo, è stato possibile realizzare in modo virtuale quella che era la decorazione. E colpo di scena finale, quando cala la notte, questa decorazione verrà proiettata sulla torre, quindi noi potremo di nuovo vedere i colori araldici, gli animali, gli uccelli e le incredibili figure che decoravano esternamente la Rocca di Vignola.